lira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. È inutile che correre si incontro come fai una lira. Casi in zede lingue non si fa una lira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. Dai! Attacca il micro, schiaccia rec e vado in fly. Il mio rap mangia scarsi a mo' di crocodile. Mo' lo sai, taglio rime samurai. Cerchi il flow e come Joe mi fia uno squillo casomai. Scrivo a caso mai, più fumo noi che nei cammini accesi dentro il cassolai. Faccia le scarpe a tutti quanti come un tempo e calzolai. Questi qui non ha le palle, son vallette da non è la Rai. Passiamo e tu fatti la croce, amen. Parla l'ale, mentre fake come dame, dame in area. Con la rabbia il sangue dentro agli occhi rosso rame. Ogni strofa qui letale viene fuori come teste dalle tane. Ogni rima mia è un trailer. Caccio l'istinto assassino, sono un mostro altro che nightmare. Voleva te la shit, vi riempio di letame. This is cannibal flow, lo riconosci dalle trame. E hai l'ga cura, le singodo come fa una lira. Casi in zede lingue non si fa una lira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. E non ti l'ga cura, le singodo come fa una lira. Casi in zede lingue non si fa una lira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. Bow wow, mica mordi scappa il countdown. Bocca brilla come Paul wow. Innovazione bow wow. Zitto rap non vale manco un euro ma un pound. Il tuo click c'è una town. Il mio click è un click pow. Se il beat picchia duro stono c'è. Ogni rima è come un jab. Non mi prendi come a Montpellier. Questi rapper truccati come Tokyo Hotel. Questi vecchi ancora che suonano non sono mica Moro Dev. È la next Gazelle. Da un po' di tempo che non me ne frega. Perciò sono lontano da questi col mega. Sono distanti da me come l'Alfa e l'Omega. Finiscono peggio di Vega, qui sembra che nasca una versione beta. Flow Omega, per questi pagliacci inciampano tra i lacci, beccano soltanto calci come fossi un acci, spacco senza nemmeno pensarci, che puoi farci in questo gioco, fai fatica pure a starci. Fra di lega cura, le singodo come fa una lira. Casi in zede lingue non si fa una lira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira. O sorte capo fai, non pusciami nella gira.